Vlog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Buongiorno a tutte, ragazze. E allora, ascoltate, diffondete questo messaggio a tutti i vostri contatti, a coloro che hanno bambini che vanno sia all'asilo che alle elementari e anche alle medie. Dobbiamo andare tutti al nostro comune di appartenenza, andare a firmare per la legge Genter, cioè arrivare al comune e dire: voglio firmare contro la legge Genter. La legge Genter è una legge che purtroppo, se passerà, siamo tutti nei guai, perché già dall'asilo parleranno della masturbazione, della penetrazione, parleranno anche che due uomini o due donne è normale che si possano sposare e vivere insieme. Ai bambini, anche a forma di gioco per loro, li vestiranno le femminucce dai maschietti e i maschietti da femminuccia. Ecco, ho dato voce anche a delle persone che sono convinte che esista il terrificante incombere della teoria gender sulla compattezza sessuale, sulla differenza di genere sacrosanta dei nostri figli, e quindi questa mattina ho dato modo di parlare anche a una persona che è convinta che questo esista. Questa signora sta diffondendo questo messaggio attraverso WhatsApp a tutte le altre mamme del suo paese, della sua città, non so bene quale sia. Il pezzo è preso dal sito dell'Espresso, che lo ha diffuso in rete, e sta mettendo in guardia le madri nella teoria gender, che penso che sia una declinazione ulteriore, ben più terribile, ben più violenta del gender che abbiamo cercato di smontare ieri nella sua forma fallace, immaginaria e del tutto complottistica. Prendo però lo spunto dalla trasmissione di ieri, in cui abbiamo parlato di qualcosa che comunque ha un suo riverbero evidente in rete, perché prendo proprio l'esempio, solo per il fatto di aver parlato di qualcosa che ha un'attinenza con la sfera delicatissima e piena di mille pregiudizi della sessualità, ci siamo, ma come tante altre persone, beccati poi nei social una sfilza di messaggi che ci danno del tutto, dal ricchione al culattone al finocchio e via dicendo. Questo perché sta nelle cose della rete. Questo è un sistema di diffusione comunque di campagne o di flussi di disprezzo, di odio, di diffamazione pure rispetto alle persone, che è diventato evidente da quando la rete, ma soprattutto l'uso diffuso dei social media, che è una vulgata a prova di scemo dell'uso di internet. Chiunque può scaricarsi un'app e può esprimersi improvvisamente, avere la sua dignità di esposizione di pensiero in rete. Beh, logicamente, siccome il fenomeno si diffonde, siccome ognuno può dire quello che vuole dire, come ognuno usa il sacrosanto diritto di esprimere un'opinione secondo i metodi, le metodologie, il livello di percezione della complessità della realtà che lui conosce, è chiaro che per qualcuno questo diventa una massa infame e pesantissima, che comincia a pesare sulla sua onorabilità, sulla sua dignità, sulla sua figura e sulla sua maniera di porsi verso il mondo. Faccio un esempio, senza entrare nei particolari, perché c'è in corso, penso, una querela e quindi l'avvio di un giudizio, e non voglio assolutamente mettermi in mezzo. Una signora, personaggio noto, frequentatrice di talk televisivi in cui esprime pareri di tipo tecnico proprio riguardo al crimine, oggi è al centro di un flusso di notizie, non notizie, non so bene, in rete, per cui un suo ex fidanzato l'avrebbe denunciata perché lei, proprio in una forma di questo libero esprimersi del pensiero attraverso i social, che poi in realtà non è poi così privato, lo vedono tutti, avrebbe alluso a un suo una sua dotazione di fuoco, che però si colloca sotto l'ombelico, a cui potrebbe accedere chiunque abbassandolo al cernerampo, che è calibro 9. Voi dite calibro 9 è enorme, no? Calibro 9 sono 9 mm di diametro, quello per farvi capire. Ecco, questo è stato considerato, al di là della facezia della cosa, elemento sufficiente per dire: questa signora mi sta diffamando, e quindi inizierà probabilmente un procedimento legale. Ecco, quando questo poi si espande a livello generale e si va non tanto alla diffamazione o alla ridicolizzazione o all'attacco nei confronti di una persona per un suo magari difetto fisico, è un microfallo, vabbè, è un suo problema, ma non è che detto che dovrebbe sapere il mondo. Quando uno comincia a dire ce l'ho con tutti i neri, ce l'ho con tutte le persone che hanno una religione, appartengono a un'etnia, beh, diventa una campagna d'odio vera e propria, e questo si chiama hate speech, e di questo parleremo oggi. In rete le parole possono essere armi ed essere usate per aggredire, minacciare o per isolare, ma la rete è libertà d'espressione, condivisione, partecipazione. Grazie al tuo blog, ai tuoi social, ai tuoi forum, fai di internet un posto migliore. Qualcuno usa il web per offendere, aggredire, disturbare, ma tu puoi dire no agli insulti sui social, no all'isolamento nei forum, no al razzismo nelle chat, no alla violenza nei blog e no alle minacce in rete. Fai di internet un posto migliore. Usa internet col cuore, no all'odio, no all'intolleranza sul web. Questa è una delle tante campagne che stanno facendo, visto che il problema è all'ordine del giorno, sull'hate speech. E dobbiamo capire bene di cosa si tratta, perché esiste un'area in cui uno può esprimere delle proprie opinioni, che possono essere anche accompagnate da un linguaggio colorito, da un uso spregiudicato del lessico normalmente in uso fra le persone e non quello formale che magari è più usato negli articoli o nei salotti televisivi. Ma quali sono i limiti? È importante porsi dei limiti. Andrea Rossetti, buongiorno. Buongiorno. Andrea Rossetti è professore di filosofia del diritto all'Università di Milano Bicocca, dove insegna anche informatica giuridica. È un po' la persona di riferimento in questo programma quando abbiamo problemi del genere. Perché cominciamo a porci il problema dell'hate speech? Cosa c'era di diverso rispetto a quando se insultavi una persona questo poteva o darti una bastonata, ne rispondeva, o anche denunciarti per inutilmente, che poi passavano anni e non sarebbe successo nulla, per averlo offeso, diffamato e via dicendo. È banale dirlo, ma quello che c'è di mezzo ovviamente sono i social media, no? E la differenza rispetto al passato è proprio questa. Mentre l'offesa prima era una cosa che era limitata o alla persona alla quale era rivolta o comunque al gruppo di persone che assistevano a ciò che si diceva, adesso tutte queste cose circolano in rete e si diffondono in rete. Quindi effettivamente un problema di parole che possono generare negli altri qualche danno anche di carattere psicologico c'è. Io non parlerei di hate speech, questa è la differenza. Ci sono già una serie di strumenti giuridici che permettono di tutelarmi in rete, dalla diffamazione alle minacce, insomma. Quindi ci sono veramente tanti strumenti. Ecco, ti faccio l'esempio di cui oggi ridacchiano tutti i social, la denuncia del fidanzato. È chiaramente una diffamazione. Ecco, se io scrivessi su un manifesto davanti alla tua università Rossetti calibro 9, potresti denunciarmi. Sì. Ma prima, adesso, domani, voglio dire, appunto, anche se lo fai con un volantino appeso accanto alla porta. È esattamente la stessa cosa. Quello che cambia ovviamente è la diffusione, no? Perché se lo attacchi sulla porta della mia stanza in università, lo vedono i miei studenti, i miei colleghi e basta. Se lo metti sulla tua pagina di Facebook, lo vedono 10.000, 50.000 persone. Spieghi, Andrea, che persone che hanno ormai un livello di elaborazione della contemporaneità elevato, perché sennò non andrebbero in televisione a parlare, non scriverebbero libri, scriverebbero articoli, non valutano il fatto che una cosa messa in un momento di impeto, uno può avercela con una persona, in un proprio social ha un valore enormemente più forte e potente di scriverglielo sulla porta di casa. È la dimostrazione che per quanto intelligenti, per quanto abili siamo nell'usare questi social robi, non siamo ancora davvero abituati, cioè non è entrato nell'abitudine fare queste cose. Quando parliamo con determinate persone cambiamo il tono e il linguaggio, no? Uno studente si rivolge a me con una modalità diversa oralmente rispetto a quella con la quale si rivolge a un suo collega. Su social network no, su social network trovo molti studenti che mi danno così del tu, come se fossi il loro amico, perché i social network sembrano appiattire qualunque differenza. Lì siamo un po' tutti uguali in qualche maniera. Beh, è uno scardinatore di convenzioni, se no all'inizio, certo, quando nacque la rete, nacque la possibilità di interagire attraverso la rete, attraverso i primi sistemi, i net meeting, quelle cose arcaiche, la gente non sarebbe buttata a pesce lì cercando di fare la pesca a strascico. Allora, c'è indubbiamente questa possibilità, ed è una possibilità che secondo me va difesa, cioè io in rete devo poter essere anonimo. Peraltro una decisione in questo senso è stata proprio presa in questi giorni dall'analogo della Corte Suprema tedesca. Quindi io ho il diritto di andare in rete senza rivelare davvero chi sono, e quindi anche di fare tra virgolette lo stupido in rete. È chiaro che comunque io neppure sotto copertura, neppure usando un nome o uno pseudonimo, posso però commettere dei reati, posso insultare persone, posso dire cose false riguardo alle persone. Ma ripeto, però tutte queste fattispecie di reati reato sono generalmente già comprese nel diritto. Quello che cambia è il modo in cui diffamiamo una persona, è differente il modo in cui la calunniamo, la minacciamo, ma una minaccia è una minaccia alla fine. 800240024, quello che oggi mi interessa sapere dal pubblico, se vi rendiate conto quando voi semplicemente mandate un messaggio, come il signore che mi manda un sms a quella radio, che vediamo in questo momento soltanto io e lui e tutti quelli collegati alla rete aziendale naturalmente, già quindi potrebbe essere in qualche maniera suscettibile di reazione da parte mia, che fa delle allusioni rispetto ai 9 mm che ho citato io, che per lui sono in realtà una misura dirompente. Ecco, questo signore pensa che manda un sms che me lo leggo io nel mio telefono, ma già questo sms in teoria è fruibile da qualche centinaio di persone, quindi già quello che scrive è attento. Questo signore scriverebbe magari la stessa cosa su Twitter, non immaginando che magari se ci mette il mio hashtag lo vedono 30.000 persone subito. È esattamente questo. Peraltro proprio una recente decisione della Cassazione stabilisce proprio che anche se io diffondo questa informazione in un gruppo privato, la diffamazione c'è lo stesso. La diffamazione c'è nel momento in cui qualcun altro viene a conoscenza di un contenuto che in qualche modo lede la tua onorabilità. Ma questo è interessante, lo dico pro domo mea e dei miei colleghi. Quando le persone mandano sms alle radio, perché lo chiediamo noi, è un servizio che fanno a noi, ci dovrebbero dare almeno dei baluginì di realtà che noi non riusciamo a percepire e diventano fonte primaria della nostra trasmissione. Quindi io ci credo molto nel feedback del pubblico, ma molte volte lo interpretano come una sorta di appunto hate speech nei confronti del conduttore e ti dicono le cose peggiori. Certo. Noi ci facciamo una risata. Però forse ricordare loro che se proprio volessimo essere fiscali, che già questo rientra in un'area in cui potremmo. Nel momento in cui tu puoi dimostrare che questo sms possono accedere altre persone, 9 mm è enorme. Fino lì non ci vedo perché non ci credo. Sei messo male col tuo. Nel momento in cui il messaggio diventa fruibile anche da altri, effettivamente qui si può iniziare a configurarsi il reato di diffamazione, ma su questo non c'è il minimo dubbio. Nello stesso modo, appunto, se appendesse un manifestino giù al bar qui sotto, no? Sarebbe esattamente la stessa cosa. No, questo lo dico non per creare vendette personali, per cominciare a far capire le persone, quando voi muovete, comunque sia in un media elettronico di qualunque tipo sia, comunque create un effetto, create qualcosa che ha una sua coda lunga, e la vita delle persone è fortemente colpita e in qualche maniera compromessa da questo effetto, nel bene o nel male. È facile vedere queste catene che ci sono molte volte in rete, anche la notizia che ho citato prima. Se tu guardi i commenti, sono commenti diffamatori nei confronti della persona che in qualche maniera è coinvolta, perché è un personaggio pubblico, e subito dicono c'è questo, c'è quell'altro, è fatta così, è fatta là, è questo. E non si rendono conto che non è come dirlo all'amico seduto accanto in una stanza chiusa con le finestre blindate. Ci manca completamente la cultura dell'uso di questi strumenti, non viene neanche insegnata in qualche modo, no? Perché anche nei programmi delle scuole a volte si basa più a insegnare a usare l'HTML piuttosto che il C, piuttosto che non so quale bizzarro linguaggio di programmazione, quando quello che in realtà dovremmo fare è un'educazione civica dell'uso dei social network. Sono anni che lo ripetiamo, no? In realtà ci sono un ragazzetto e a volte anche degli adulti, ahimè, che si comportano in questo modo, non sono in grado di comportarsi correttamente neppure nella vita di tutti i giorni. La differenza è che adesso noi sappiamo che c'è un grande numero di persone così. 800240024, rinnovo il mio invito, visto che gli italiani sono formidabili manipolatori di smartphone, quindi usano tantissimo i social, oltre che per mandare e condividere le foto dei teneri gattini, oltre che per fare dei link ai siti pubblici, vi dicendo, vi mandate comunque dei messaggi. Vi è mai capitato di essere al centro di una campagna, anche se pur condominiale, personale, fatta soltanto agli amici che conoscete, in cui siete sentiti fortemente in difficoltà? I casi di cronaca sono pieni di persone che poi arrivano anche compiere gesti estremi proprio per il fatto che sono trovati al centro una campagna del genere. I campi in cui si può manifestare l'hate speech sono molteplici ma anche definibili. Uno di quelli, diciamo, è quello dell'odio razziale. Certo, ovviamente tutte le cose, tutte le opinioni che riguardano sesso, razza, religione e cose di questo genere sono quelle più a rischio di hate speech. Io qui ho una posizione, insomma, se vuoi molto astratta e un po' ingenua, ma io credo che tutti abbiano il diritto di dire la loro opinione per quanto sia sbagliata. Io non credo che il diritto debba imporre alle persone di dire la verità. Al limite questo è un dovere morale. È chiaro che io non sono obbligato né a dare spazio a queste persone, né in qualche modo a rendere visibile anche la loro opinione. Io credo che la maniera migliore per combattere idee sbagliate sia raccontare le idee giuste. È questa la cosa, insomma, alle falsità si risponde con la verità, non con un mandato di cattura o con una persona con la prigione o con una multa. Ripeto, mi rendo conto che in un periodo come questo la mia posizione può sembrare un po' idealistica, però io credo che il diritto alla libertà di espressione sia quello che connota proprio il nostro modo di vivere e credo che non vada intaccato in nessuna maniera. Luca, Lucia da Brescia, buongiorno. Buongiorno a voi. Argomento molto interessante. Allora, io sono coinvolta nel senso che insegno in una scuola privata, insegno informatica e quindi nei miei argomenti ci sono ormai da un buon paio d'anni i social in generale, Facebook eccetera. In teoria lei dovrebbe insegnare soltanto il codice, dovrebbe essere compito di insegnanti che si occupano di altre materie spiegare anche la maniera in cui poi si usa. No, nella nostra scuola prevediamo, diciamo, insegniamo tutto quello che è l'utilizzo pratico, quindi anche è più allargata, diciamo. Sì, è una scuola, diciamo, anche proprio mirata proprio all'utilizzo, alla conoscenza e poi all'utilizzo pratico. Ecco, però le chiedo, professoressa, visto che noi cerchiamo in questo momento dei casi concreti, questa parola che sembra così astratta e lontana dall'esperienza quotidiana, net speech, sembra che la usano soltanto i gruppi che vogliono fare pressione negativa nei confronti di minoranze, diciamo che è stata allucinata più volte nella puntata di ieri, di oggi, quando parlavamo del gender, naturalmente. L'ho sentita. Però nel campo proprio di stretta osservazione di un insegnante, è lo strumento più crudele oggi di sopraffazione nei casi di bullismo. Il cyberbullismo in realtà è la parola che sostituisce il vecchio antico bullo che ti aspettava nel bagno per picchiarti o per tirarti fuori le mutande dei pantaloni. Grave anche perché è appunto soprattutto nei confronti delle persone più giovani, ma non solo, c'è proprio questa scoperta di uno strumento assolutamente crudele, assolutamente feroce, proprio perché te lo fai tranquillo, cioè tu accoltelli qualcuno essendo tranquillamente a casa tua in qualunque orario, di notte, di giorno, in giorno di festa, in qualunque momento, sei lì bello nascosto, perché effettivamente ti viene concesso e credo sia anche giusto, però è giusto anche che uno poi paghi se combina qualcosa di grave, e quindi una persona effettivamente può essere attaccata. Devo dire che a me è successo anni fa, quando ancora queste cose venivano poco utilizzate, frequentavo un forum, si usavano di più un tempo, e sono stata attaccata proprio anche con insulti, parolacce, e mi sono resa conto di essere alla mercé, perché questo gruppo di persone che comunque contava, non so, metti un 500 persone, tutte queste 500 persone leggevano degli attacchi e delle offese. Ecco, lei pensi oggi, visto che è stata pioniera di questa maniera di interfacciarsi, quanto la cosa sia molto più grave, moltiplicata con i social? Anche il più scalcinato degli utenti di Facebook ha molti più di 500 utenti. Fermiamoci un attimo, diamo le informazioni necessarie in questo momento, poi riprendiamo questo tema. 800 24 00 24. Logisticamente, Modul Block. Dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Vi presenta Melog. Cronache meridiane. Stiamo parlando dell'hate speech, che è un termine che sembra astratto, lontano dalla nostra esperienza personale, però in realtà è quel fenomeno di fastidio, di rumore di sottofondo che chiunque avverte, anche semplicemente quando pubblica una foto in rete, gli dicono: è fatta male, sei brutto, ma che scarpe c'hai, che camicia da sfigato. Ora, che questo sia un reato ancora non lo possiamo dire, non è un reato, perché c'è una grande libertà di opinione, ma questo moltiplicato attraverso i numeri enormi che può creare un flusso di opinione in un social network può creare dei problemi alle persone. Gli ascoltatori, che naturalmente fingono di non capire, continuano a mandare messaggi del genere e dire che il governo sta facendo propaganda, la teoria gender, e quindi è reato, mi assisterete, basta con questa storia del gender, siete ossessionati, un'ossessione, è veramente un'ossessione. È chiaro, ognuno può dire quello che vuole, è chi crea comunque dei flussi di persone che in realtà creano nell'opinione pubblica generale un senso di allarme, crea un disservizio. Se un ministro è costretto a mandare una circolare a tutti i dirigenti scolastici perché sono tartassati da genitori che hanno in mano un modulo dove c'è scritto non voglio che mio figlio segua la teoria gender e devono dare delle spiegazioni, crea un problema. Questo costa energia, costa soldi in una situazione già abbastanza difficoltosa. Questo sì, secondo me, è un reato. Sentiamo qualche ascoltatore, Corrado da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, ma io volevo semplicemente raccontare un po' quello che è successo a mio figlio 3 anni fa in prima liceo. Lui era stato fatto oggetto da parte di un bulletto di qualche minaccia su WhatsApp, prima l'alterco era proprio cresciuto con botte e risposta e alla fine la persona in questione è arrivato proprio a minacciarlo di botte fisiche. Quindi Davide, così si chiama mio figlio, è venuto a farmi vedere tutto il thread, quindi tutta la conversazione, io ho pensato bene di stamparla, ho fatto partire una denuncia preventiva telematica ai carabinieri, la denuncia andrebbe confermata il giorno successivo, l'ho stampata, ho preso informazioni sui genitori del ragazzo, che ho scoperto essere degli avvocati qui della città dove viviamo, quindi ho preso l'indirizzo dello studio degli avvocati, ho preparato una mail adeguata, l'ho stampata, l'ho data a mio figlio, abbiamo concordato che non sarei andato con me a scuola, ma lui, appena visto il ragazzo, doveva sventolare i fogli dicendogli coglione ti ho salvato il culo, perché mio papà è veramente incazzato, questa volta la fai franca, ma la prossima volta parte una denuncia vera e propria. E come è andata a finire? È andata a finire che questo ragazzo se l'è letteralmente fatta addosso, mi ha telefonato chiedendomi scusa e dicendo che una cosa del genere non si sarebbe mai più ripresentata, e è andato tutto bene. Non sono diventati amici, però amici, insomma, adesso si tollerano. Sì, perché il papà avvocato tante volte, lo so perché lo dico per l'esperienza personale, quando era più piccolo mio figlio un bullo diceva sta attento, tanto c'ho mio papà avvocato, qualunque cosa mi fai, se mi meni poi vado da mio papà avvocato. Allora, Andrea Rossetti, ricordo, professore di filosofia del diritto alla Bicocca di Milano, Università Bicocca, lo insegna anche informatica giuridica. È un comportamento da manuale quello di questo padre? Sì, sì, direi di sì. In realtà il papà avvocato aiuta, ma al contrario in molti casi, perché il papà avvocato si rende conto che sono rogne. La denuncia sono un po' delle scocciature, insomma. Sì, sì. È chiaro questo comportamento, cioè, se il figlio di così minacciare scemo una querela. Minacciare una persona via WhatsApp lasciando una traccia scritta. Sì, sì, sì. Si è inchiodato allora, con le sue stesse minacciare mani. Minacciare una querela è sempre un comportamento un po' borderline, perché non è un comportamento proprio correttissimo dal punto di vista giuridico. È chiaro che qui la cosa si svolge tra minacce fisiche. Sì, sì, no, ma qui in realtà il comportamento corretto sarebbe stato andare dai carabinieri, basta, insomma, e poi il contatto con i genitori avrebbe... Non ha voluto creare un caso... No, è chiaro che lui si è comportato con buon senso, per carità, e credo che questo dovrebbe essere un modello d'azione, però dal punto di vista, insomma, meramente, prettamente giuridico, minacciare un'azione legale può essere esso stesso un atto illegale, insomma, quindi bisogna stare un po' attenti quando si fa questa cosa tra adulti. Sì, però aspetta, entriamo la minacciata verbalmente, perché lui semplicemente... vabbè, però l'ha minacciata davanti a altre persone, quindi... Beh, il professor Rossetti diciamo che ancora, là in questa cosa. Allora uno deve essere deciso, se decide di denunciare denunci, l'affidi sì, al che poi braccio non si secolare. Deve arrivare fino in fondo, no? La querela c'è, poi può essere rimessa, ci sono un sacco di strumenti, peraltro appunto vedersi piombare i carabinieri a casa propria, che magari insomma, arrivare la raccomandata con la querela a casa fa sempre un bel effetto, insomma, a chi ha fatto questi scherzetti. Giovanni Mariabello, buongiorno. Buongiorno. Giovanni Mariabello, giornalista e presidente dell'Associazione Carta di Roma, che ha promosso la campagna contro l'hate speech. Ci spieghi esattamente cosa state facendo e perché vi siete mossi in questa direzione? Allora, abbiamo pubblicato un appello su change.org e questo appello è rivolto ai lettori, agli ascoltatori e anche ai giornalisti. In sintesi si chiede ognuno nel proprio ruolo, ciascuno nel proprio ruolo, di isolare gli autori dell'hate speech. Faccio un esempio concreto che esempio, poi anche è l'origine. Cioè, noi sappiamo che quando pubblichiamo, in particolare su temi dell'immigrazione, una cosa su Facebook o sui social, subito c'è un po' di gente, un gruppo di persone quasi specializzate che intervengono e insultano semplicemente, no? Oppure c'è un articolo, cioè, che parla della troll. I troll professionisti, sì, professionisti o anche dilettanti, però diciamo molto, molto attivi. Però sai bene che sono comportamenti al limite della psicopatologia, certo. Molte certo, volte. Certo, però sono comportamenti che poi creano un modello che si diffondono e poi soprattutto... È uno stile, sì, creano uno stile, questo è ragione. Creano uno stile, si ammette la possibilità che un dibattito, un confronto possa venire con uno che dice sporca negra, bisogna imparare la kienge, quello là sembra un cammello. fratello e tutta la sequenza di insulti. Allora, cosa succede? Succede spesso che si crea una relazione con questi, qualcuno pensi di rispondere, per esempio. Ecco, noi diciamo a queste persone non bisogna rispondere, vanno isolate, questo non ha nulla a che fare con la libertà di manifestazione del pensiero. Beh, è un vecchio tema, il troll non si sfama, bisogna lasciarlo morire di fame, è chiaro. Esatto, quindi banniamoli, e diciamo anche ai giornalisti che quando incontrano hate speech anche nei discorsi dei politici, siccome il discorso razzista, noi parliamo in particolare dell'hate speech riferito appunto ai temi dell'immigrazione, perché poi di questo si occupa la nostra associazione, non ci si deve limitare a registrare uno sproposito come se fosse un'opinione, perché se uno dice una cosa che va contro le leggi della scienza, oltre che diciamo contro la storia, il giornalista deve farlo notare semplicemente. Ecco, però Giovanni Maria, qua dobbiamo guardarci allo specchio noi come categoria. È chiaro che ormai ha capito la nuova generazione, soprattutto dei politici più in vista, gli eroi dei talk televisivi, che in realtà loro hanno molta più attenzione e molto più illuminazione sulla loro immagine, mandando un tweet dicendo appunto una di queste frasi. Immediatamente tutti si fregano le mani, diventa il titolo di apertura dei giornali online e il giorno dopo si apre la polemica. Pinco Pallo ha detto sporco a questo e l'altro gli ha detto ma che nemmeno tu ti lavi, e diventa una notizia. È un po' un metodo di cui in parte la categoria è responsabile. Assolutamente sì, nel senso che in particolare per i temi dell'immigrazione la ricerca del sensazionalismo, no? È ancora più nociva, diciamo così, perché vai a toccare una materia molto sensibile, molto delicata, una materia umana molto delicata. Quindi su questi temi si vede di più il male che può fare un atteggiamento rispetto alla notizia, che è quello di cercare la frase effetto, e anzi non solo di cercarla ma in qualche modo di sollecitarla, dando uno spazio maggiore, no? Dando uno spazio che è proporzionale all'enormità dello sproposito. Diciamo che sì, è una giusta lezione di deontologia. Oggi molto giornalino è dato su quello, sollecitare la persona finché non dice lo sproposito, e lo sproposito diventa notizia. Andrea Rossetti. Eh sì, il problema è quello che fa notizia, insomma. È chiaro, uno che parla perfettamente, correttamente, senza usare nessun termine scorretto, fa sicuramente molto meno notizia rispetto a uno che insulta. Ma questo è banale, voglio dire. Ecco, cosa proponete però, Giovanni Mariabello, come diciamo antidoto a questo comportamento? Noi possiamo fare una dichiarazione e dire saremo tutti bravi, come la carta di Treviso, mai far vedere in realtà disattesa dopo un nanosecondo che è stata pubblicata nella maggior parte dei casi. In questo caso cosa proponete voi come diciamo antidoto a questo comportamento? Ma non c'è una ricetta sola, c'è una serie di comportamenti che vanno messi in atto dai lettori, dagli ascoltatori, dai giornalisti, e anche l'appello a un punto che è dedicato agli amministratori dei social, perché si ha molta difficoltà a tutt'oggi, per esempio su Facebook, a convincere Facebook a cancellare delle pagine che sono esplicitamente razziste, probabilmente perché loro si basano su dei protocolli, diciamo, su un modello americano, dove si consente sostanzialmente tutto, cose che da noi non sono consentite. Beh, per molti periodi hanno bannato pagine con le donne che allattavano perché era considerata qualcosa di osceno. Esatto, diciamo che l'algoritmo non è così intelligente, chiaro. Però poi non bannano la pagina che era una pagina proprio di insulti razzisti dedicata al deputato Ciauchi. Ecco, quella è rimasta per mesi, e credo che ci sia ancora, e non c'è verso di farla togliere. Allora, fermiamoci un attimo, che devo dare la linea al traffico, poi con Rossetti cercheremo di capire quanto poi sia possibile, praticabile o in realtà lievemente utopistico quello di dire ai grandi colossi come Facebook: adattatevi comunque alle circostanze locali di ogni paese in cui una parola o un modo d'essere ha un valore diverso, un peso diverso. Tra un istante. Melog. Cronache meridiane. .800240024, siamo entrando più nello specifico di questa parola. parola non comunissima, perlomeno nell'uso dei social, che è hate speech. Si pratica ma non si metabolizza, non si capisce cosa sia. E ciò stava spiegando Giovanni Marabello, che è un giornalista, che è presidente dell'Associazione Carta di Roma, che ha promosso una campagna ammirevole, soprattutto rivolta ai mediatori e a chi poi gestisce il grande traffico nei social, e dire ci sono delle circostanze che si adattano ai paesi in cui magari un valore diverso si dà a una parola, a un'affermazione. Sentiamo qualche ascoltatore e poi torniamo i nostri ospiti. Mario da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno. E niente, c'era solo un quesito che volevo porre al suo ospite, per carità, lui si occupa di immigrazione, quindi capisco che sia più sensibile. Nessuno di noi si occupa di immigrazione, c'è un professore di informatica e un giornalista che promuove una campagna contro, diciamo, le campagne d'odio, ma in generale anche contro chiunque, anche, no, allora, anche contro i pensionati, contro chiunque. Allora probabilmente non sarà, voglio sperare che la cosa che lui, i rimedi che lui propone non siano limitati solo a chi insulti, lancia insulti agli immigrati, così, ma che questo l'ha detto, è una sua selettività individuale, lei l'ha sentita lancia così. Lancia insulti comunque, non so, per esempio ad altri politici che a loro non sono graditi. Lei di dove è? Di dove è lei? Di Verona. Ecco, se uno dicesse tutti i veronesi, che ne so, vanno a donne di malaffare, sarebbe un insulto verso i veronesi. Altrettanto che dica gli immigrati sono tutti sporchi, quindi andrebbero isolati tutti questi che scrivono così. Sì, ma qualcuno lei l'ha insultata discriminandola per l'essere veronese? No, no, non proprio, ma comunque ci sono stati anche persone che... mi faccio un esempio, perché capiamo, abbiamo scoperto una nuova categoria debole che va aiutata. I veronesi in cosa sono discriminati? No, non siamo una categoria debole, probabilmente siamo una categoria come tutte le categorie. Ma in cosa vi insultano? Chi offende i commercianti o chi offende, che ne so, i tassisti o chissà chi, insomma, non... Cioè, tutti hanno bisogno, devono essere tutelati in uguale misura, non sono quelli che devono essere tutelati. Ma chi ha detto mai il contrario? Appunto. Va bene, buona giornata. Antonio, provincia da Napoli. Sì, salve Nicoletti, grazie per l'ospitalità. Volevo solo segnalare una doppia sofferenza, un doppio carico emotivo e di rabbia, laddove le piccole comunità locali, no? Per esempio di paesi, vanno ad assommare in questi soggetti che sono appunto obiettivi di questi blog demolitori, vanno a sommare la sofferenza che viene dal marciapiede elettronico, come lo definisco io, il Facebook o il blog strumentale, a quella che è la quotidianità e quindi nelle piccole dimensioni sociali dove c'è il rapporto continuativo, il controllo sociale reciproco e immediato, e quindi nel soggetto, intendo il soggetto sia personale, il soggetto, cioè i due mondi vanno paralleli, ti arriva l'insulto su Facebook, scendi per strada, già quello che ti ha insultato è al bar con gli amici e ridono di te. Questo è molto chiaro, certo. Poi voglio dire una cosa, c'è anche adesso il costume di qualche persona o personaggio che mirerebbe a qualche carriera politica partendo da zero e si inventa un blog, e laddove in questo blog mette di tutto e di più contro le persone, contro gli enti, contro le amministrazioni, e non solo, ma mettendo anche delle espressioni veramente offensive al massimo. Capendo, è qui la domanda che faccio. Distruggendo al massimo la reputazione pubblica e quella delle persone, e questa persona che magari va a canalizzare anche una giusta, voglio dire, delusione rispetto alla dimensione politica, che voglio dire, siamo nel 70° anniversario. Lei c'ha un nome bene in mente, adesso non voglio che lo dica, però chiaramente si riferisce a una sua esperienza. Assolutamente sì, anche personale, anche collettiva rispetto a una. No, spieghi il caso, senza fare il nome. Lei è stato, diciamo, attaccato fortemente da un suo avversario politico? Lei è un amministratore? Sono un collaboratore, mi interesso di comunicazione pubblica, e però ho in mente non tanto la mia persona, che è molto marginale, quanto quelle delle altre persone che sono leader, che hanno una presidenza, che hanno occupano la posizione di sindaco oppure collaboratori. È molto chiaro, fermiamoci, è molto chiaro, sennò trabordiamo. Allora, due domande, due ospiti, così poi chiudiamo. Andrea Rossetti, può essere considerata un'aggravante, qua hai capito, è quello che si fa, è lo strapaese di quella che è la grande politica nazionale, un consigliere comunale, volendo diventare, ha capito che aprendo un blog insultando i propri avversari esce sui giornali locali, nel bollettino parrocchiale, così, e questo crea un danno doppio, oltre il danno generale che avrebbe chiunque, anche poi la persona esce per strada, questo magari ha detto, guarda, c'ha le corna e si deve anche subire questo tipo di insulto diretto e carnale, ecco. Sì, sì, ma qui allora tutte queste cose sono sicuramente insulti di diffamazione, che sono una cosa diversa, no, dalle parole d'odio, perché le parole d'odio vuol dire che io insulto una persona in quanto appartenente a una categoria debole, perché questo no, non sono una categoria. E quello volevo far capire debole, al signore veronese, è quello di prima, no? Ok. Allora, quindi i veronesi non vanno bene come non vanno bene i pavesi, ma neanche i taxisti. Ok, devo appartenere a una, io sono insultato in quanto donna, beh, io no, ovviamente, o in quanto portatore di pochi capelli, non lo so, però categorie che sono in qualche modo introdotto. Allora, in questo senso, allora si può parlare di hate speech. Io non lo condivido questa idea, però non dobbiamo confondere l'insulto personale con quello che viene, no, in qualche modo, appunto, vengono chiamate parole d'odio. Queste sono due cose completamente diverse. Quelli che fanno questi signori sono chiaramente, questi politici sono chiaramente dei comportamenti che potrebbero essere giuridicamente rilevanti. La verità è che la maggior parte dei casi loro, coloro che sono attaccati, non rispondono per non generare ulteriore problema, per non generare ulteriore polverone. Allora, Giovanni Marabello, abbiamo proprio un minuto per concludere, per capire anche rispetto all'esperienza di questo ascoltatore, però è significativa, sono micro realtà, sono significative. È qualcosa di più rispetto un invito, diciamo, ai giornalisti di usare il loro mestiere adeguato ai mezzi con cui oggi ci si confronta? Sì, c'è sicuramente questo aspetto, cioè che il problema è vecchio. È il giornalista che ha un interlocutore, gli mette sotto la bocca il microfono, no? Ed è lì, ed è un portamicrofono. Ecco, questo vale a maggior ragione, questo non va fatto, a maggior ragione nei social, ecco, i nuovi mezzi di comunicazione. Cioè il giornalista deve fare il mediatore e davanti ai discorsi d'odio, nei termini in cui tu li definivi, stati da un politico, deve dire... Questo non va, ma non è che non va perché è brutto, è anche brutto. Io sono molto sincero, davvero molto difficile che un giornalista di fronte a un politico che dice uno sfondone terribile e dice no guarda è brutto, non lo dica, questa cosa non la passo. Cioè, io onestamente non lo farei. No, non è che non la passa, non la lascia passare liscia. Allora io faccio questo esempio. Facendo un'intervista su il progetto di un navigatore solitario, no? Uno mi dice no, ma mi sembra difficile che possa riuscirci perché come è noto la terra è piatta. Io giornalista dico ma guardi che la terra è tonda. Chiaro, è ignoranza, ecco, e se poi si dice quell'infamone del presidente del consiglio c'ha colpa lui, figurati, diventa il titolo di prima pagina. Siamo umani, grazie, a domani.